In questa storia c'erano due cappelli, anzi tre, ma uno è stato perso per strada. In realtà, questa sarebbe la storia del terzo cappello, quello di paglia, che non viene mai citato. Il cappello di paglia, l'unico vero protagonista della storia, era partito con i due personaggi, ma ha deciso di rimanere a Parigi, appeso nella cucina di un monolocale, all'ombra della chiesa del Sacro Cuore a Montmartre. I due personaggi sono tornati alle loro occupazioni in Italia. Il cappello, non avendo occupazioni, ha preferito restare.